Alla Catalla. Questa è la canzone di Alla Catalla. Quando ascolterai e ti divertirai e ti piacerà Alla Catalla. Le canzoni ascolterai, il tuo demo ci sarà, e le sigle dei cartoni con le storie sempre nuove. Questa è la canzone di Alla Catalla. Se l'ascolterai e ti divertirai e ti piacerà Alla Catalla. Poi c'è Claudio e Giuseppe e risate a crepapelle. Non dimentichiamo Roy che la canta insieme a voi. Dai, cantiamo tutti insieme la canzone Alla Catalla. Per ballare e divertirci, resta e canta insieme a noi. Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla. Questa è la canzone di Alla Catalla. Se l'ascolterai ti divertirai e ti piacerà Alla Catalla. Alla Catalla. Alla Catalla. Questa è la canzone di Alla Catalla. Se l'ascolterai